Mercoledì 16 marzo alle ore 20 presso la Atelier C ci sarà l'esito performativo della residenza artistica con Lucia Palladino e Flavia Passiglie. Siamo qui per parlarne proprio con Lucia Palladino, quindi buongiorno Lucia e benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buongiorno. Allora Lucia, ti volevo chiedere che cos'è avvenuto in questa residenza artistica, negli spazi e nelle mura di Atelier C e qual è appunto l'esito performativo che potremo vedere poi questo mercoledì, cioè domani. Allora, sono stata qui ospite per 2 settimane insieme a mio figlio negli spazi di Atelier C, quindi abbiamo abitato qui e abbiamo lavorato in tutti gli spazi che hanno a disposizione, in particolare in teatro, e per questo progetto di ricerca in questa residenza mi sono occupata di lavorare soprattutto il suono assieme a Flavia Passigli. Mercoledì quello che condividerò sono una serie di materiali che faranno parte di una produzione, di una performance che sarà una performance di lunga durata che sarà pronta nel 2023 e in particolar modo in questi giorni ho appunto lavorato sul suono, quindi nonostante siano dei materiali di ricerca, quindi non è un lavoro finito, l'esperienza sarà un piccolo rito performativo in ogni caso, di cui non voglio dire molto altro perché non voglio svelarlo, insomma. Certo, assolutamente, bisogna comunque lasciare un po' di sorpresa anche. Ti volevo chiedere anche, Lucia, questo evento è in collaborazione anche con il collettivo d'arte Parsec. Com'è avvenuta questa vostra collaborazione? Dunque, l'invito è stato fatto da Atelier C, quindi il collettivo io non lo conoscevo, ed è stata una bella proposta. Ho conosciuto 2 delle ragazze che fanno parte del collettivo, Silvia e Irene. Le ho incontrate principalmente online quando ero ancora a Bruxelles e poi quando sono venute qui io le ho fatto degli inviti di osservazione sul mio lavoro e loro quando potevano, quando erano libere, ma molto spesso, quindi loro mi hanno veramente dato molta attenzione e molto del loro tempo. Loro sono state con me, quindi hanno soprattutto partecipato, osservato, hanno guardato come lavoro, come procedo, come sto nello spazio e così. E dopo avremo un riscontro, cioè loro produrranno per Atelier C un piccolo oggetto testimone, un piccolo oggetto artistico testimone di questo incontro tra di noi, che trovo una cosa molto bella. Tra l'altro sabato 12 marzo, quindi appunto sabato scorso, c'è stata anche una camminata come pratica artistica di resistenza per prepararsi anche un po', no? In qualche modo a questo performance di mercoledì. Ti volevo chiedere proprio come la camminata entra all'interno di questo progetto. Dunque, camminare è una pratica artistica per me che sviluppo, pratico e sulla quale rifletto da più di 10 anni e ho scritto anche un libro su questa pratica e quindi la cosa è molto corposa e molto densa. C'entra, diciamo, sul lavoro che sto facendo, c'entra perché c'entra in tutto quello che faccio, camminare ha a che vedere con tutto quello che faccio e nello specifico legate a delle pratiche sul camminare ho iniziato a sviluppare delle pratiche di scrittura e nella performance di mercoledì ci saranno appunto questi materiali scritti che vengono fuori da queste pratiche sul camminare. E che avranno anche una loro pubblicazione a breve a Bruxelles all'interno di un festival che si chiama Wandering Art Biennial che ha pubblicato anche il libro precedente sul camminare e la camminata di sabato è stato molto bello perché c'erano moltissime persone e molto diverse tra di loro e ero un po' spaventata perché tendenzialmente le camminate che faccio sono molto, hanno un carattere molto selvatico e hanno comunque delle posizioni molto radicali rispetto all'attraversamento dello spazio. E ho fatto una proposta molto semplice che è stata ben accolta. Ho proposto di camminare a coppie dall'Atelier C fino all'eremo di Ronzano. Io conducevo la camminata e a coppie una persona teneva gli occhi chiusi per un'ora e l'altra la conduceva, e quindi ci abbiamo messo più o meno 2 ore e mezza per arrivare su e basta. E questa è stata l'esperienza che abbiamo condiviso. Bene Lucia, io ti ringrazio veramente per averci raccontato un po' più da vicino questa residenza artistica, e ricordo ancora una volta che sarà appunto, come dire, in qualche modo in scena, possiamo dirlo, questo mercoledì, quindi domani alle ore 20 all'Atelier C. Grazie ancora. Grazie mille, grazie a te. Buona giornata.